Dialogo diciassettesimo. Raccontò Abu Ayyub al-Ansari: un giorno un uomo si avvicinò all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e gli disse: dammi qualche consiglio, ma senza farla lunga. L'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, gli disse: quando fai la tua devozione quotidiana obbligatoria, falla come se fosse l'ultima. Non dire parola di cui domani ti debba pentire d'averla detta e non desiderare le cose altrui.